appello, ha a che fare con l'influenza A e questo è proprio un tema, tra l'altro, che nelle scuole in questo momento spaventa tantissimo, i genitori sono in allarme, cosa succederà questo inverno quando la pandemia, stavo per dire l'epidemia, ma questa sarà una pandemia, interesserà tantissimi ragazzi. Allora noi ci siamo dati da fare, abbiamo deciso, abbiamo copiato un po' l'idea del nostro professor De Benedittis, perché lui ha fatto la letteratura in rap, noi abbiamo fatto la prevenzione in musica, e quindi io sono convinto che tu adesso vorrai chiedere ai nostri due ospiti di verificare se abbiamo lavorato bene. Fai tutto tu, Alberto. Mi siedo perché mi piace questa coccola magnifica. Sì, l'iniziativa è magnifica, io l'ho trovata molto divertente, l'abbiamo lanciata a tutti i medici che possono allearsi con amici musicisti, ma anche abbiamo chiesto ai musicisti, a persone che suonano la chitarra, strimpellano il pianoforte, magari di recarsi dal proprio medico di famiglia, di chiedere la collaborazione per fare questo testo intorno alle regole di prevenzione dell'influenza A. Io all'inizio, per lanciare l'iniziativa, ho giocato in casa e quindi ho chiesto ad Alberto Pellai, il mio inquilino del sabato, nonché il mio carissimo amico, ad Andrea Vitali, medico scrittore, e ad un medico chirurgo dell'OIEO, il dottor Oreste Gentilini, di mettersi al lavoro. Questo proprio per dare il là ed invitare altri loro colleghi, altri musicisti a partecipare. Tutte le regole ci sono sul nostro sito, su Radio 24, quindi aderite, come si dice, numerosi, faremo una sorta di parade del chi sale e chi scende. Ma allora io approfitto dell'invito di Alberto e metto subito anche al lavoro i nostri due ospiti, per così chiedere, per sottoporre questi brani musicali e magari dare la loro preferenza. Li facciamo ascoltare. H1N1 con l'aereo e con il treno, dalle Alpi alle piramidi, dal Manzanar al Reno. Uno. Lavati le mani anche molte volte al giorno. Due. Usa il fazzoletto per tossire e starnutire. Tre. Se ti fa mal la gola, evita lavoro e scuola. Quattro. Evita gli sbalzi di temperatura. La mia scuola resta senza l'antipatica influenza, ed un pugno al virus do grazie a quello che io so. Al virus un pugno io do grazie a quello che io so. Con buon senso, educazione, ne ridurremo la diffusione. Davanti al naso e il fazzoletto, allora, Andrea Vitali era la prima, virus H1N1. Alberto invece ha scritto insieme a Giovanni Paolo Fontana e a De Luca questo Un pugno al virus, mentre questa ultima di Oreste Gentilini, un po' come possiamo definirla, professor De Benedittis, una musica techno? Sì, mi stavo appunto pensando questo, un bel pezzo techno da mandare in discoteca. Ecco, quindi noi ci siamo rivolti ai grandi, ai bambini, ai discotecari. Preside, a lei qual è quella che ha colpito di più delle tre? Allora, il primo brano mi è piaciuto molto. Mm. Il secondo lo trovo in linea con i neomelodici. Il terzo, sì, lo vedrei in una discoteca con le luci che si muovono, vanno avanti e indietro, guizzano. Ecco, abbiamo fatto anche un po' la scenografia. E al nostro professore rap invece? E a me è piaciuto molto il secondo, perché mi sembrava una melodia abbastanza interessante, e soprattutto ho apprezzato molto l'inversione sintattica: al virus un pugno io lo do. Vede, questo è il testo di Alberto Pellai, che è felice e contento. Intanto anche voi, anche se l'avete già espresso per adesso con noi il vostro voto, ma potete anche andare a votare, esprimere la vostra preferenza sul sito di Radio 24. Quindi andate anche voi, Alberto. Tra l'altro, un'altra iniziativa. Sì, ci tengo molto, proprio perché col professor Castrillo abbiamo parlato un po' di situazioni difficili a scuola. Credo che siamo i primi che danno l'annuncio, proprio